sei nato Stefano. Poi è arrivata la tua sorellina e sei diventato... Fefè! Sei andata a scuola, dove per tutti eri... Bianchi? Ma per lui eri... Quattro occhi. Poi è arrivata lei e sei diventato... Coricino. Che poi è diventato... Cucciolo. Quindi... Amore. E dopo qualche anno... Amore! Hai cominciato a lavorare e sei diventato... Quello nuovo? Che il giovedì sera diventa... Sette! Ma subito dopo... Ti hanno chiamato... Monsieur? Ti hanno chiamato... Dottor? E ti hanno chiamato... Per qualcuno sei... Gentile cliente, la sua chiamata... Per qualcun altro... Prossimo? E anche se al lavoro sei diventato il... Capo? E a casa... Papà! Per noi rimarrai sempre Stefano. Nutella fa parte della tua storia, tu fai parte della sua. Per questo oggi puoi personalizzarla con il tuo nome. Nutella, il buongiorno ha un nuovo nome. Il tuo. Com'è bella la nostra sigla, che è in grado di trasformare il sentimento di ansia iniziale in una cosa molto, molto da sboroni. Infatti il nostro amico di Basement Records è entrato in regia e gli abbiamo detto: fai una cosa alla MacGyver, quindi. Lui però è riuscito a fare soltanto a rubarci una bottiglia d'acqua e dei chiodi. Vedremo cosa combinerà nel corso della serata in regia. Buonasera. Buonasera. Com'è? Come va? Bene, a parte il computer in aggiornamento proprio nei momenti sbagliati. Non è un problema, abbiamo tutte le alternative. Windows è un problema. Sì, è un problema grosso. Saputo. Ho sempre saputo. Bene, questo giovedì di pseudo primavera si spera che da domani il tempo migliori. È tornata l'Accademia della Brusca ed è tornato, guardate un po', anche il mio computer. Hai visto? E tu che invece pensavi male di lui, poverino, poveretto. Allora io intanto dico velocissimamente sì. Due cose: mail posta@wombat.net, twitter.com/radiowombatfi. Scriveteci. Il sito ormai lo conoscete, vi ricordiamo le frequenze della M1359. Vi ricordiamo che dopo di noi c'è il fantastico Naoto con 8 Hertz in diretta. Questa sera è una rotella, mi sa. Sa che stasera c'è il DJ set, ecco, ballate perfetto. Tutti. E a seguire la replica della mitica Tonight Alive alle 23. Che dire, domani invece in diretta abbiamo Uru e tutte le repliche immaginabili del mondo, il venerdì è pieno zeppo e così via, insomma, se andate nel sito wombat.noblogs.org in palinsesto troverete tutte le informazioni che meritate. Cos'è stata l'ultima cosa che hai detto? Oggi sono in modalità macchinetta. Anch'io. Perché siamo in ritardo. Siamo in ritardo, abbiamo finito di lavorare alle 19 e sono le 19.40 e 13. Siamo qui, praticamente. Siamo state bravissime. Siamo qui. Ma insomma, puntata molto molto molto interessante, un viaggio nell'origine di alcuni aggettivi, soprattutto appellativi, che diamo alle persone, che derivano da nomi propri. Generalmente si tratta di arcaismi che risalgono al Medioevo, oppure chiamiamoli prestiti, se ci va, possiamo dire anche così, che derivano da romanzi generalmente epico-cavallereschi. Però sarà tutto molto più divertente di così, perché parleremo... Sì, sì, diciamo sempre così. Sì, no, ma lo sarà. Non so quanto tempo è che non dite la parola manigoldo. Io penso di averlo sentito forse in Irma la dolce l'ultima volta, in un film quindi dei primi anni 60. Quando uscì. Quando uscì, proprio. Io d'altronde sono attempata, per cui sono una tra le più attempate in radio forse. Sì. No, dai, non è vero. Che dire? Ma prima teniamo tutti un pochino sulle spine. Mandiamo un pezzettino. Ah, sì. Subito. Così. Subito così. Subito. Mi sciupi tutta la scaletta. Ti sciupo la scaletta. Ci sto. Guarda, ci sto perché questo è uno dei pezzi più belli. Ce l'ho in testa da una settimana. Forse so cos'è. The name game. Shirley. Shirley, Shirley, Bo Burley, Bo Nana, Fana, Bo Furley, Fee, Fine, Mo Merrily. Shirley. Lincoln, Lincoln, Lincoln, Bo Bingan, Bo Nana, Fana, Bo Bingan, Fee, Fine, Mo Mingan. Lincoln. Come on, everybody. I say, now let's play a game. I bet you I could make a rhyme out of anybody's name. The first letter of the name, I treat it like it wasn't there. But a B or an F or an M will appear. And then I say Bo at a B. Then I say the name, then banana, fan, or an F. And then I say the name again with an F. Third plane, then a fee, fi, and a mo. And then I say the name again with an M this time, and there isn't any name that I can't rhyme. Arnold, Arnold, Arnold, Bobonal, Bonana, Fana, Bofonal, Fee, Fi, Momonal, Arnold. But if the first two letters are ever the same, I drop them both, then say the name like Bob. Bob dropped the B's, Bo, Arb, or Fred. Fred dropped the F's, Bo, Red, or Mary. Mary dropped the M's, Mo, Airy. That's the only rule that is contrary. Okay? Now say Bo. Bo. Now Tony with a B. Tony. Then Banana, Fanner, and Fo. Banana, Fanner, Fo. Then you say the name again with an F very plain. Bonnie. Then a Fee, Fi, and a Mo. Fee, Fi, and Mo. Then you say the name again with an M this time. Bonnie. And there isn't any name that you can't rhyme. Everybody do Tony. Tony, Tony, Bo, Bony, Banana, Fanner, Fo, Phony, Fee, Fi, Mo, Moni. Tony. Pretty good. Let's do Billy. Billy, Billy, Bo, Illy, Bo, Nana, Fanna, Bo, Philly, Fee, Fi, Mo, Millie. Billy, very good. Now let's do Marsha. Marsha, Marsha, Bo, Basha, Bo, Nana, Fanna, Bo, Basha, Fee, Fi, Mo, Asha. Marsha. A little trick with Nick. Nick, Nick, Bo, Big, Bo, Nana, Fanna, Bo, Big, Fee, Fi, Mo, Mick. Nick. The name. Tony, Tony, Tony e Sudditoni Banana. È o non è un pezzo bellissimo? È un capolavoro. Dai, forza. È un capolavoro. Oh. Ci credo che ti ronzava in testa una settimana, sì. Perché poi quando lo senti non se ne va più. Che bello. Ma? E quindi bando The Name Shirley. Game, allora si parlerà di nomi, forza. Esatto, forza, su dai, iniziamo. Su. Ah, che fatica. Guarda. Quanti di voi conoscono il termine galeotto? Tutti, suppongo. Questo. Però galeotto, ci ricolleghiamo anche alla puntata scorsa di Dante, quindi galeotto fu il libro, eccetera, eccetera. La nenia sta sbattendo la nostra... Enciclopedia del perché si dice le club degli editori che vi citeremo anche stasera. Perché nulla è fatto a caso. Esatto. E Galeotto È un personaggio, pensate un po', di vari romanzi appartenenti al ciclo bretone. Galeot o Galeaut, dipende dalle versioni, ed è molto importante perché si trova ovviamente nella storia d'amore fra Lancillotto e Ginevra. Quindi un nome documentato a partire più o meno dal XII secolo, che assume un significato antonomastico. Diciamo che è un po' il termine, la parola del giorno, antonomastico, che vi insegna la vostra bruschina. E che mantiene ancora oggi questo significato. Il nome deriva dall'italianizzazione di un cognome letterario di origine francese, quindi, no? E dicevamo appunto, nell'episodio dantesco, riguardante i due celebri cognati amanti, Paolo e Francesca, quindi siamo nel quinto canto, colui che fu amico di Lancillotto, quindi Galeot, viene parafrasato all'interno dell'opera e parafrasato soprattutto al libro che i due cognati stavano leggendo e quindi collegato, no, a questo fatto che poi li ha portati a consumare il loro amore. Galeot fu il libro e chi lo scrisse? D'altronde, bimbi e grulli, 50 chi li fa? Sfumature di corte. Di corna. Anche. E il libro riveste quindi la stessa funzione di Galeotto, l'amico di Lancillotto ovviamente, che ha favorito l'amore tra Lancillotto e Ginevra. Insomma, un po' la candela, il terzo incomodo, ecco, quindi il moccolino che è stato in grado di spingere un amante tra le braccia dell'altro. Diciamo che la critica letteraria, ma anche qualche linguista, è stato contrario a questa, diciamo, interpolazione del nome all'interno della lingua italiana, però io non ci vedo altre spiegazioni, sinceramente. Sì, anche secondo me. Però possiamo accettare quindi questa forma di... Accettiamo anche suggerimenti e altri. Sì, se qualcuno... Qualche altra versione. Esatto, una storia diversa, ce la scriva apposta wombat@insiberia.net e poi magari la prossima volta, insomma, se ne parla. Ecco. Poi, il caro Galeotto non si trova soltanto nella più notoria Divina Commedia, ma si trova anche nel Decamerone. E proprio all'inizio, tutti. Comincia il libro chiamato Decameron, Mamma o Principe Galeotto, da cognominare, cognominato Mamma o Principe Galeotto. Se pensavo fosse qualcosa di sardo scritto da te, tipo, sinceramente. E gli ho cognominato, effettivamente. Cioè, tu hai visto qualcosa che ipoteticamente era scritto in sardo e non mi hai detto niente. Niente, ho saltato più. Hai strizzato gli occhi e sei andata ho più fatto giù. Come ho fatto una lezione. Salto un rigo. La famosa lezione facile, no? Ho saltato come il copista ignorante. Ma guarda te. E questa è la prima storiella che vi raccontiamo stasera. Galeotte anche noi un pochino. Un po' sì. Siamo un po' galeotte anche sì, noi. Sì, sì. E se io non ma accendo... anche un po' manigolde. No. no, nulla. È successo qualcosa? Non è successo niente. Il tuo impianto elettrico? Mi si stava consumando la batteria. Ah, okay. Ero quasi a zero, ma se non accendo le ciabatte... Ciabatte in diretta all'Accademia della Brusca. La ciabatta che tra un po' ci arriverà dai famosi cruschisti. Sì. Farà il giro di qualche isolata Firenze e ci arriverà addosso una ciabattata. No, ma loro sanno che noi gli vogliamo bene. Sì, posso fare il solito saluto di certo. Telefono. Un saluto al mio amatissimo professor Zeno Verlato, che so dove sei, ti troverò prima o poi. E finalmente sarai mio dopo 9 anni di attesa. Stalker. So anche dove vai a prendere il caffè. Ecco. Da Roberto, lo so. Guarda, le sa tutte. È tremenda. Non so. Io avrei un po' di paura. So anche che ora prende il treno da Rifredi per tornare. Oh, mamma. No, ma è stato un caso quello. Dai, vabbè, basta. Però, Nina, qui si entra nella patologia. No, sto scherzando. Però, effettivamente, è stato uno dei professori migliori, più giovani, fantastici che abbia mai avuto. E lo ringrazio tanto perché, vabbè, se non fosse stato per lui, l'Accademia della Brusca forse non esiste. Uno pari hai uno fatto pari. Con lo stalkeraggio. Sì, dai. E alla fine ti sei ripresa. Via. Va bene. Allora, bene. Passiamo appunto. Mi sa che ci sta perfettamente al Manigoldo. Ecco. Allora, Manigoldo. Significato. carnefice, boia, aguzzino, furfante, briccone. Questo briccone è proprio bello. Sei proprio non potevo levarlo, guarda. Proprio un briccone. A differenza del caro Galeotto, qui siamo su un etimo un pochettino più incerto. Perché Manigoldo deriva dal tedesco, probabilmente, forse, Manigold, nome di un autore che nel XXI secolo scrisse uno scritto, appunto, un testo contro gli eretici, oppure forse era un celebre boia. Altri credono che derivi dal Longobardo, invece Mudivald, tutore. Sembra un po' strano come derivazione, però ci può stare. Quindi colui che esercita il potere, quindi giustiziere. Qui dovremmo applicare le famose leggi di Grimm e Werner per vedere se, tornando verso un termine sanscrito, si può trovare qualche cosa di più affine e simile. Ma non è questa la sede per parlarne. Io ma non ho voglia di farlo, semplicemente. Con molta onestà intellettuale ti dico non ho voglia. Però se qualcuno volesse applicare le famose leggi della filologia germanica, questo termine Mudivald, che significa tutore. Voglio dire, siamo vicini al fine settimana. Sì, vi paghiamo una birra quando ci vediamo. Così. E i significati più antichi di questa parola sono piuttosto truci. Ci raccontano del Manigoldo come un assassino, come il boia all'epoca. Oggi invece il Manigoldo è un pochettino, diciamo, fatto di un'altra pasta, no? Si parla di Manigoldo quando si vuole un po' dire utilizzare un'espressione colorita e ironica per dipingere un furfante, no? Una persona un po' licenziosa, un po' un briccone, come dicevamo prima, è bellissimo briccone. Però qui io direi di citare il nostro amico di una parola al giorno.it, grandissimo, bellissimi risvegli con la mail delle 6 di mattina. Che ciò non vale a rendere positiva tale figura e non toglie che possa anche restare una parola di duro giudizio. Semplicemente, bello avere la radio sopra una sala prove. Voi non sentite, ma qui c'è veramente... Piantala con sti bonghi, non siamo mica in Africa. Qui si potrebbe... si potrebbe mettere. Chissà, li sentite? No, forse no. No, forse no. Se lo sentite, scrivetecelo. Ecco, così, insomma, così faremo piantare questi bonghi. Ecco. E, ciò non vale, comunque, si diceva, rendere positiva tale figura e non toglie che possa anche restare una parola di duro giudizio. Semplicemente, sono piuttosto rari i casi in cui questa può essere utilizzata in tono serio, no? Manigoldo. Si parla quindi di quel Manigoldo in motorino che ci supera a destra, quel Manigoldo che annacqua il vino della casa, il Manigoldo che ha imbrattato il bandone dell'edicola. Sono bravissimi. Sono fantastici. Sono veramente bravissimi. Hanno una raffinatezza, una delicatezza proprio, anche nel trattare certe parole. Ma la chiosa che hanno usato, parola da non sottovalutare, perché più che attaccare qualcuno gli si toglie il peso. Troppo fantastico. Bello. Grandi. Bellissimi. Sì. E io adesso ti faccio ascoltare un po' di musica. Che cosa? Dimmi che è un pezzo trash. Quasi. Quasi. Uno di quei miei Amarcord anni 60. Il suo nome Donna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa, e vuole me. Può sembrare capricciosa, Donna Rosa, ma non c'è da farci caso, lei vuole me. Sono sincero, confesserò, non ce la faccio a dirle di no. La donna è vabbina, e questo lo so. E Donna Rosa fa la sdegnosa, non è un segreto e le prove vi do. Mando mille telegrammi, compro cesti di lilla, canto 100 serenate tutti i giorni. Lei però fa marameo e poi ritorna da mamma. Il suo nome è Donna Rosa, cara, bella, veramente favolosa, e vuole me. Per qualcuno è un'ambiziosa Donna Rosa, ma son certo che mi sposa, lei vuole me. l'hai detto già. Madonna rosa è misteriosa e quest'esempio lo confermerà. Io prenoto bomboniere e rinfreschi al Grand Hotel, compro chili di brillanti tutti i giorni, lei però fa marameo e poi ritornerà mamma. Il suo nome è Donna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa, e vuole me. Può sembrare capricciosa, Donna Rosa, ma non c'è da farci caso, lei vuole me. Sono sincero, confesserò, non ce la faccio a dirle di no. Che culo. Hai visto? Quindi era proprio irresistibile. Accidenti. Tra l'altro, a me viene in mente una cosa terribile, un ricordo della Rai d'infanzia. Pippo Baudo che duetta con la Ricciarelli su questo pezzo. Una cosa che potrebbe veramente bloccare lo sviluppo a chiunque. Davvero. Vabbè. E chissà, appunto. Donna Rosa... termine successivo che non deriva propriamente da un nome proprio, ma comunque da una situazione. Libertino, colui che vuole Donna Rosa a tutti i costi, potrebbe anche essere un libertino, no? Nonostante si parli di matrimonio in questo pezzo. Libertino è un aggettivo che deriva molto semplicemente dal latino libertinus, derivato di libertus, quindi il liberto, che invece forse con il significato moderno deriva più da un prestito francese, libertin. Allora, anticamente era un termine che qualificava la condizione dei liberti, no? Quindi la condizione libertina, e indicava appunto questo schiavo affrancato oppure il figlio discendente di un liberto, quindi uno schiavo liberato dalla sua condizione, che poteva ritornare a godere di una semilibertà. Ma... in realtà sarebbe anche il fautore della libertà di un governo democratico. Il Guicciardini utilizza questo termine in una frase particolare. Quelli che per fare professione di desiderare la libertà si chiamano volgarmente i libertini. Mi viene in mente qualcosa anche con i carbonari, qua, un carbonai, una cosa del genere, ma non è. E poi un termine polemico utilizzato soprattutto nel XVII secolo con un riferimento a quegli intellettuali che assumevano in forme più o meno velate delle posizioni non conformiste rispetto alle consuetudini, quindi alle tradizioni, alle scale di valori etico-religiosi più comuni, in nome di una libertà di coscienza e di critica. E quindi il pensiero, il movimento dei libertini, no? Ma non solo. Il libertino è forse è anche il senso comune che utilizziamo oggigiorno, è chi non osserva le regole stabilite e si sottrae a una determinata disciplina o tradizione. Ma non solo. Là, forse, con il significato più noto, più utilizzato è... il passaggio successivo. Sì. Infatti. Okay. L'uomo dai costumi licenziosi, di condotta disordinata, dedito ai facili amori. Ai ai ai. Un libertino impenitente. Bellina. Ed è piuttosto raro, per una volta finalmente, trovarne il femminile libertina. Ma perché a noi la ci dicono... la nostra Donna Rosa. Libertina. A noi ci dicono molto di peggio, generalmente termini sì, che non hanno una possibilità di essere declinati al maschile. Grazie. Sessismi nella grammatica sessismi italiana. All'Accademia della Brusca. Davvero, ragazzi. Ci vuoi raccontare un altro nome oppure preferisci ascoltare un po' di musica? Così per riposarti un po'. Ascoltare un po' di musica. Ah, sì, sì, sì. Sei sicura? Sì, sì, sì. Sei sicura? Sì, sicura, sì, sì, sì, sì. Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino.

che nel dialetto ferrarese viene utilizzato proprio come termine quando c'è una questione tra due persone, la durlindana. Si usa davvero, sì. Che bello. E il cavallo ovviamente di Rinaldo, Baiardo. Però è uno sbruffone più che, anzi ovviamente, più sbruffone che valoroso. E non so se spoilerarvelo, non so se avete mai letto l'Orlando Furioso, però Orlando lo uccide con appunto la bramatissima durlindana. E questi caratteri, no, di Gradasso l'hanno fatto diventare un personaggio di presa sull'immaginario collettivo, e quindi l'antonomasia nasce proprio da qui, quindi Gradasso, fanfarone, diventa un termine utilizzato anche oggi. E chiamiamo Gradasso il millantatore, anche questo è un termine particolare che deriva dal latino, poi ve lo diremo un'altra volta però. Lo spaccone, uno che si presenta più forte e coraggioso di quello che in realtà è, e che utilizza poi la forza e l'arroganza per predominare. Ed è interessante come poi notare come la locuzione più comune che viene utilizzata in questa parola, cioè fare il gradasso, riesca a comunicare molto bene questa antonomasia, no? Quindi fa il gradasso chi si comporta come nome proprio Gradasso. Quindi in realtà io prima ho detto Gradasso Bullo, ma secondo la nostra fonte di una parola al giorno.it, il ragazzino di terza media che fa il gradasso con quelli di prima in realtà non è un bullo, perché cerca soltanto di farsi più grande di quello che è. Un po' di nonnismo. Esatto. Il gradasso stolido che ha un lavoro modesto chiederà un finanziamento cinquantennale per comprare un'auto di lusso con cui girellare per le vie del paese dandosi grandi arie. Ne ho conosciuti diversi. E l'accademico più celebre, che è dotto, farà il gradasso raccontando di essere stato in lizza per il Nobel, a cui ha nobilmente rinunciato per altri impegni. Ci sono i nostri amici di una parola al giorno.it, che tra l'altro se vi iscrivete alla loro newsletter ricevete molto comodamente tutte le mattine alle 6 la parola del giorno che potete imparare molto facilmente, perché appunto utilizzando queste descrizioni così belle e vivide, insomma, non c'è da annoiarsi. No, assolutamente no. Bene. E lo sai, vero, che quindi la prossima puntata sarà sull'antonomasia? Perché è molto probabile. Figura retorica che va spiegata. L'abbiamo nominata 4-5 volte, quindi vi tocca. Va bene, io allora inizio con la mia rubrichetta. Mia rubrichetta oggi prevede... La rubrichetta oggi prevede il primo modo di dire, lo dedichiamo a tutte le trasmesse. A tutte le trasmissioni che ci hanno abbandonato volutamente per altri motivi che non staremo qui a dire, perché avevano finito il repertorio, perché non si stavano più simpatici, hanno litigato e si sono presi a cazzotti. Hanno fatto i gradassi. No, non è successo niente di tutto ciò. Però alle trasmissioni che non vanno più in onda. Allora noi abbiamo pensato bene di dedicare questo modo di dire, rimandare alle calende greche. Molto bello. Significa bellissimo. Rimandare qualcosa a un tempo che non verrà mai, perché nel calendario greco non c'erano calende. Si crede che la frase sia stata detta per la prima volta dall'imperatore Augusto a proposito dei debitori insolvibili che, appunto, secondo l'imperatore, avrebbero pagato soltanto ad graecas calendas. Le calende erano per i latini il primo giorno del mese e calendario, il libro su cui si registravano gli interessi che maturavano al primo di ogni mese, quando i creditori chiedevano la restituzione del denaro dato in prestito. Sempre da calende viene il nome del fiore calendula, ovvero fiore di ogni mese. E sembra anche che Sesto Calende abbia preso il suo nome da un mercato che vi si teneva il sesto giorno prima delle calende, cioè il quintultimo giorno del mese. Le calende greche è molto bello, le utilizzerò più spesso oggi. E quali sono le trasmissioni che ci hanno abbandonato finora? Anche se alcune non definitivamente, perché ritorneranno. Coming Song, La Revancia, sì, che per ogni tanto farà una comparsa. Mortal Wombat. Wombat. Ma aspetta, 3000 siepi. Sì. Una delle premissime, tra l'altro. La trasmissione della domenica pomeriggio sul Pancoi. È vero. 13 Boots, esatto. 14. E basta. Ditemi se l'ho detto bene. Credo che siano queste. Peccato, però sì, magari... Ma torneranno. Le riaspettiamo. Ritornerai, sì. Lo so. E poi volevo dedicare al nostro... al nostro amico Basement Record per la quantità di puntate fatte e per la quantità di mole di materiale che riesce a sfoderare sia verbale che vinilico. Le fatiche di Ercole. Ah, capito. Guarda dove sono andata a parare. Capito. Si dice di un lavoro straordinario, sproporzionato alle forze di un uomo, in generale di un ostacolo che appare insuperabile. Ercole fu l'eroe nazionale greco che compì per ordine del re 12 pericolosissime imprese, tutte suggerite dall'odio e dal desiderio di farlo morire. Le 12 celebri fatiche sono nell'ordine tradizionale l'uccisione del leone, l'uccisione dell'idra. Ora io chiaramente sto tagliando, ma qui chiaramente spiega tutto. La cattura del cinghiale, la cattura della cerva e così via, la strage degli uccelli, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, l'undicesima, la raccolta dei pomidoro delle Esperidi, infatti tutte le sculture rappresentano o la pelle di leone o i tre pomidoro, e per finire la dodicesima, la discesa nell'Ade e la cattura di Cerbero. Ercole scese nell'Ade con l'aiuto di Hermes e Pallade, bla bla bla, fu un gran casino. E poi ha vinto tutto. Eccolo qua. E quindi ha svelato. Gran fatica. E poi è finito qui, perché poi anche Basement Record, arriva a 12, alla dodicesima, poi si dovrà riposare un pochino. Sì, perché... Cioè, nel senso, non è che può farla solo lui la radio. È tremendo. Tremendo. 2 ore di trasmissione. Io assido. Non so come possa fare un essere umano veramente a fare questa cosa. È una cosa fonte incredibile. Inesauribile. E se parli di musica con lui, le sa tutte ti fa diventare un piccolo gnomo. È incredibile. Ti trasforma in un piccolo gnomo. Sì, sì, sì, è troppo saccente. Ebbene. E poi, dai, e io ne voglio sentire altri. Ti do l'ultima del giorno per Rassegna Stampa, una delle nuovissime new entry della Radio Wombat. C'è la Nina, fa tutti i versi, i gestacchi. Le corna. Sì, la Rassegna Stampa, che è una grande conquista di Radio Wombat, quindi ci tengo a ringraziare tutti quelli che collaborano per la Rassegna Stampa, perché sono veramente tanti. È un'equipe divisa in 3-4 gruppi, veramente eccezionale. Quindi grazie ragazzi, grandissimi, ottimo lavoro. E vi dedico questo. Sapere dove il diavolo tiene la coda. Tiè. Che significa essere molto furbi, capire immediatamente dove sta l'inganno. Secondo me ci sta tanto. Ci sta perfettamente, stampa, loro lo sanno benissimo. Per come la facciamo noi, ci sta. L'origine di questa locuzione è di estrazione popolare e fa parte del bagaglio di miti e leggende che seguono da tempo l'umanità. Una volta si credeva che il diavolo venisse fra i mortali per indurli in tentazione o per acquistarne l'anima, e per passare inosservato si travestiva nei modi più disparati. Ora, mentre le corna si potevano facilmente mascherare sotto un grosso cappello e le zampe caprine erano occultate da una veste lunga, la coda rappresentava un problema anche per quell'astutissimo essere. Però qualcuno ancora più astuto del diavolo riusciva ugualmente a vedere, o meglio a intuire, che sotto la veste c'era una coda, e quindi capiva chi aveva di fronte e non si lasciava ingannare. Bello. Lo stesso dicasi per l'espressione saperne una più del diavolo. Quindi ho un aneddoto anch'io sul diavolo, quello riguarda il ponte del diavolo, quello che c'è a Pistoia. Sì. No. A Lucca. Sì, è bellissimo. E lo sapete perché si chiama, che non è l'unico in Italia, ce ne sono tantissimi che hanno questa nomea e questo nome. Perché praticamente periodo delle invasioni barbariche, a forza di l'imperatore Costantino aveva praticamente vuotato Roma e quindi buona parte dell'Italia dell'epoca di tutte quelle figure professioniste che sapevano costruire, quindi fabbri, muratori, carpentieri, cose di questo tipo. quando dopo l'invasione barbarica ci si trova a dover costruire un ponte di quel tipo, non si sa come fare, perché non c'è più nessuno che sa utilizzare i mattoni, la calce, e quindi diventa un'impresa del diavolo. Wow. Questa è una delle motivazioni. La seconda, invece, che è proprio legata alla leggenda del ponte del diavolo che c'è a Lucca, quella lì, dice che il capo, come si chiama, il maniscalco? Il capomastro, non c'entra niente. Penso, sì. Il capomastro, qualcosa di simile, insomma. Sì. Esatto, finito il ponte, si trova il diavolo dall'altra parte e gli dice: caro mio, questo ponte sei riuscito a costruirlo, è andato tutto bene finora, perfetto, ma sappi che il primo che metterà piede qui dovrà darmi la sua anima. Per cui lui, rimanendo dall'altra parte del ponte, non lo attraversa, pensa a chi mandarci, e i suoi operai no, lui no, sbuca un canino, lo prende e lo manda di là dal diavolo, il cane sparisce. Questa è la leggenda del ponte del diavolo. È vero. Poverino. Che probabilmente no, ma tanto era Bobby il cane di Gesù. Questa non la dovevo dire, no? Torno indietro. Dai, Bobby il cane di Gesù del vernacoliere. Non andate così bene fino a 10 minuti dalla fine. Devo sempre rovinare tutto. Bobby il cane di Gesù. Sì, sarà roba del Sardelli, il cane gonfio. Sì, dai, sì, sì, era del Sardelli, giuro. O giù di lì, del vernacoliere. Bellissima. Ed è forse lo stesso ponte dipinto nel paesaggio di sfondo della Gioconda. Sembrerebbe, vero? Cioè, quindi così, curiosità artistiche, dopo tutto. E pruriti al naso. E che altro? Basta, così. Una canzoncina. Io intanto canzoncina e poi saluti, sì. Angela, Angela, angelo mio, io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credimi, io non volevo. Angela, Angela, angelo mio, quando t'ho detto che voglio andarmene, volevo solo vederti piangere, perché mi piace farti soffrire. Volevo farti piangere, vedere le tue lacrime, sentire che il tuo cuore è nelle mie mani. Angela, Angela, angelo mio, ma tu stasera invece di piangere guardi il mio viso in un modo strano, come se fosse ormai lontano. Ti prego, Angela, no, non andartene. Non puoi lasciarmi qua giù da solo. Non è possibile. Da un tratto io possa perderti, perdere tutto. Oh, Angela, Angela, angelo mio, io non credevo che questa sera sarebbe stato davvero un addio. Angela, credimi, io non volevo. Angela, Angela, angelo mio, Angela, Angela, angelo mio, Angela, Angela, angelo mio. Eccoci, mi era sfuggito un attimo un finale del pezzo, perché se non la piantano con questi bonghi. Davvero, guarda. Ah, allora, si vuole fare un... una rassegna, una merenda intanto. Ecco, una rassegna degli eventi che ci sono questo fine settimana. Allora, io so che al Next Emerson domani c'è un concerto del collettivo, sì, Nuovi Rumori. Collettivo Nuovi Rumori, concerto con tre gruppi, punk hardcore, post HC, insomma, eccetera eccetera, bellini. Allora ci sta che andremo a vederli. E invece sabato c'è una serata dub, leggo sempre al Next Emerson. Serata dub, non ho altre informazioni però, ma comunque considerando che... Sai, secondo me Nautodate possiamo... dopo ne saprà più di noi. Sì. E poi basta, non so altro, ma ciò non significa che non ci sia qualcos'altro di interessante in giro. Sicuramente polveriera, spazio sociale, c'è sicuramente qualcosa... Qualche cosa nel fine settimana. Quindi l'invito è sempre quello di andare a vedere i siti dei posti amici. E che altro? Baci, abbracci, tutti i nostri social li abbiamo detti. Li abbiamo detti Facebook, tutti quanti. Ma vabbè, tanto lo sapete. Stop, continuiamo a ripetere, ascoltate Radio Wombat. Mettete semplicemente in streaming la radio, esatto, in diretta e la ascoltate. E se siete in macchina, provate la nostra nuova frequenza M1359. E fateci sapere dove riuscite, esatto, a sentirla, anche se oggi si sentiva un po' malino. Un pochino meglio. No? Sì. Ah sì, io l'ho sentita. Io l'ho sentita un po' meglio, ma... Però di passaggio. Esatto, poi dipende sempre da dove uno è. In alcuni punti si sente male, però ancora, insomma, ci stiamo lavorando. Ecco, se volete fare un po' di radioascolto, appunto, e volete dirci da dove l'ascoltate... Dove, come, bene, quando, male, malissimo, benissimo, bene ma non benissimo, apposta wombat@siberia.net. E allora è stato detto tutto quello che si poteva dire in questa fantastica puntata. Ciao. Ciao, a giovedì prossimo. Addio, addio. Vogliamo mandare un pezzo di chiusura oppure ce la, sì, prendiamo comoda così? Anche se c'è un pezzettino, perché tanto io, per salutarci. In realtà ho un pezzo, ma è un pezzo un po' tamarro. Cioè, quelli va tipo... benissimo, io sto già mangiando le patatine, va benissimo. Mi dai l'autorizzazione a mettere un pezzo tamarro? Tamarrissimo. Cioè, pensa che finora non te l'ho mai chiesto, quindi significa che... Quindi significa che è grave la situazione. Sì, è un po' una di queste americanate di pop, un po' tamarre, però... Io... Non dice niente di, per quanto la mia comprensione dello slang americano sia valida. Non è trap. Però non è, no, beh, chiaramente. E quindi ve lo mando. A risentirci la settimana prossima. State in ascolto, state perché va, dopo state c'è 8 corte. Hertz. State a corte pure, certo. E boh, ciao. Ciao, bacetti. Bacetti. Look, people ask me what the future is. All I know is I'll be doing this. All I know is things are moving quick. That's convenient for me cause that's how I live. Now they see me out here moving up. You don't like me, that makes two of us. Time change, yeah, I can't adjust. Yo, it's who you are, not who you was. Oh my, yeah, just went to Europe. They say this single is working. I think I'm learning. I am way more than what people might think when they look on the surface. What is my purpose? Yeah, that is a question that I have been asking myself and it hurts. Cause probably something I should already know, but I don't know it yet. I'm trying to grow as a person. I'm sick of people telling people I'm here cause of marketing dollars, oh. You think that everything is gonna blow just cause you marketed harder? No, I got my hands in everything, not AI trying to get to me. Stop trying to lecture me. You don't compare to my level of thinking, so why do you think you compare to my energy, huh? Small circle but the numbers growing. Fame call me, I'm like, how you doing? Hung up on a mind, ready for it. I get back to that when I make album 4. Less talking, I've been working more. Better me is what I'm working towards. Y'all judging but we not in court. No, we not in court, oh lord. Last couple years, let's recap. I make a living off of writing all my regrets. I'm doing me, I don't care where the scene's at. Try to give me feedback, I don't really need that. I used to walk on stage in a V-neck. I used to wear a little tie with a black vest. I came a long way, why you looking upset? I'm trying to paint a picture, get the vision, you ain't here yet. Look, hold up, wait a minute, please. Flow switching, I got ADD. Brain scatters when you play the beat. It don't matter what you say to me. I'll be doing this at 83. I've been doing this since ABCs in the major leagues, doing major things. Don't play with me. Whoa. I'm living life in the fast lane. Wake up every morning thinking I'ma have a bad day. Drive my own car, I don't like a valet. Park, then I go into my mind with an AK. Shoot every thought in my head, then it rotates. Losing it all, but I think that I'm okay. Who was involved? I don't know, but I'm insane. Poof, and I'm gone. Wanna call me a no name? What? I'm probably not what you thought. I'm probably not what you thought. I used to judge everybody that wasn't like me till I learned it was wrong. Girl told me I should get it together and get out the dark. I'm trying to give her my heart. That's when I sit in my car, writing for hours until I can barely talk. I mean, where do I start? Feels like I'm falling apart. Act like my image is hard. I always put on my guard, even when talking to God. Sit in my room and I plot everything that I'm not. Comes out in the music I tried. I give it all that I got. I give it all that I got. I'm trying to think of the box, no. Yeah, I got people standing outside a bus screaming my name. I don't come out and take pictures, they tell me I changed. I don't smile at VIPs, you get mad like you know what I paid. Guess I don't know what to say, guess I don't know what to say. I leave it all on the stage, I leave it all on the stage.